Vendo tutto di Matteo Caccia. Il telefono cellulare, la TV, le vacanze già prenotate e le guide per andarci. I quadri appesi alle pareti, i vecchi dizionari, gli oggetti regalati e quelli comprati. Quelli ancora da mettere in vendita e quelli già all'asta. Tutto, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una raccolta di guide su New York. Cose, cose, cose e ancora cose. Questo è un programma che parla di cose, racconta la storia degli oggetti e quindi di conseguenza racconta anche un po' la storia di chi quegli oggetti li ha posseduti. Sono le 16.06, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e oggi vendo delle guide di New York. Di New York io ho un rapporto particolare con questa città, ma anche con le guide. Adesso ve ne parlerò. Siccome ne avevo già messe le foto, ne avevo già parlato sul profilo di Facebook, mi ha scritto Stefano che mi dice: capita proprio al momento giusto. A fine marzo sarà la mia prima volta a New York e mi farebbero davvero molto comodo. Stefano, prego, vai sul profilo eBay e puoi fare subito da ora la tua offerta perché le guide sono già online. Poi è arrivato un altro messaggio, è un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Giulia Grosso da Milano. Allora, lei mi scrive, è proprio appena prima della diretta, 15:43, a proposito di cose, no? Vi ricordate qualche tempo fa? Ormai era la prima settimana, credo, ho venduto una penna stilografica. A proposito, Guglielmo mi pare che si chiamasse il ragazzo. No, Guglielmo era quello della chitarra. Non mi ricordo il nome del ragazzo che ha comprato la Mont Blanc. Mi ricordo che sta a Lecco. Comunque il messaggio è: l'abbiamo spedita, è partita ieri e quindi appena arriva ti sentiamo e ne parliamo. Insomma, non parliamo della mia stilografica di cui ho già parlato, perché Giulia mi scrive questo messaggio: vendo tutto, @radio24.it. A proposito della puntata che hai fatto sulla Mont Blanc, chissà se mi puoi aiutare. Mi è successo, credo, più di un anno fa, di trovarne una in un pomeriggio piovoso e buio a Milano, in via Durini, per la precisione. Era per terra in una piccola pozzanghera e brillava. È una penna sfera, molto usata, e ha incise le iniziali F.A. Firenze Ancona, F.A. Ho pensato tante volte a chi l'avrà persa, al valore affettivo che sicuramente rappresentava, come sarebbe bello per quella persona ritrovarla. La restituirei volentieri al suo proprietario, non l'ho mai usata per rispetto e perché sento che non è mia. Possiamo fare qualcosa? Sì, o troviamo il proprietario oppure me la dai e la vendo. Banalmente, no? Comunque il proprietario di questa penna ha delle iniziali che va fanno F.A. e l'ha persa all'incirca un anno fa. L'ha persa all'incirca un anno fa in via Durini a Milano. Se ha voglia, vendo tutto @radio24.it perché Giulia ce l'ha. E veniamo a noi però, perché prima di parlare delle mie guide di New York e dei miei viaggi in quella città, c'è un pezzo, una cosa che vi voglio fare sentire. Ne abbiamo discusso parecchio prima in redazione, sarà il caso di farla sentire oppure no. Un po' perché sono fatti miei e quindi forse non era il caso, però giustamente anche il genovese mi ha detto, però raccontando la storia degli oggetti, praticamente un po' i fatti tuoi gli stai raccontando. E visto che lei è stata un po' la scintilla che ha causato tutto questo, mi sembra giusto farvi sentire questa cosa. Questa cosa è semplicemente un messaggio in segreteria. Ieri, alla fine del programma, ho riacceso il cellulare e ho trovato questo messaggio. Benvenuto nella tua segreteria. Per i messaggi vocali, premi 1. Ciao, sono io, Giulia. Ho sentito il tuo nuovo programma in cui vendi tutto. Bello, cioè, non l'ho sentito io, l'ha sentito mia mamma, però mi ha detto che è bello, bene. Senti, ho pensato che visto che stai vendendo tutto, magari vuoi venirti a prendere quel paio di cose che hai lasciato lì da me. Vabbè, insomma, fammi sapere quando passi, ciao. 349-238-6666 oppure 800-24-0024. La questione è questa, io ho già deciso. Io quegli oggetti non me li vado a prendere. Non so nemmeno per quale motivo se li sia tenuti lei, visto che erano a casa mia ed è stata lei ad andarsene. Vabbè, ma questo non è l'argomento di discussione. Io ho deciso che lei se li tiene, e anche se quegli oggetti erano importanti e probabilmente vendendoli potrei aumentare il mio fondo dei desideri, preferisco lasciarglieli. Quindi chiedo a voi, perché immagino che sia capitato a tutti, anche a voi che state ascoltando, di avere lasciato della roba a casa dei vostri ex. Quasi una forma di liberazione, perché alla fine Di questo si tratta, di liberarsi delle cose vendendole o lasciandole là dove sono, nel posto in cui non volete più tornare. 800 24 00 24, mi chiamate, me lo dite a voce o altrimenti un messaggio, un sms al 349 238 6666. Quali sono le cose che avete lasciato, abbandonato, quasi liberandone a casa della vostra o del vostro ex? 800 24 00 24. Torniamo alle guide di New York, perché è di questo che vi devo parlare oggi. Se volete vederle, andate sul sito radio24.it. La loro storia, eccola qua. Le guide di New York. Una Lonely Planet, una guida National Geographic, una guida Routar, un numero speciale di Meridiani. Tutte su New York per un totale di oltre 1000 pagine. Risalenti all'anno 2005-2006, tutte usate, appuntate e sottolineate. Per chiunque voglia visitare la Grande Mela sfuggendo ai soliti luoghi comuni. Perfette per una vacanza di svago ma anche culturale, di relax ma adrenalinica. Valore commerciale 40 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Gli oggetti che vendo oggi sono delle guide. E come tutte le guide, quando sono usate non perdono di valore, anzi, ne acquistano. Perché c'è qualcuno che le ha lette prima di te e ha segnato note con la matita, oppure ha fatto delle orecchie nei punti più importanti. Cioè, in pratica, una guida alla guida. E io sono uno di quelli che tiene diari, fa orecchie alle pagine, si segna le cose belle e le cose brutte che gli sono successe, dove, perché e quanto ha pagato. Queste poi, in particolare, sono delle guide di New York. E io ce ne sono stato diverse volte per un totale di circa 6 mesi. Cosa che, a mio parere, mi dà il diritto di chiedere la cittadinanza. A loro parere no. Credo che le guide in genere però siano una trappola infernale, per il semplice fatto che le scrive un essere umano che non è mica detto che abbia i tuoi gusti. Cioè, per capirci, per quale motivo la signora Connor Gorry, che è l'autrice della Lonely Planet che vendo oggi, dovrebbe sapere che cosa sia meglio per me? Allora, innanzitutto è una donna, il che non le ha fatto notare quanto sia fondamentale lo sport per ogni singolo essere umano, in particolar modo uomo. Cioè, il fatto che citi, ad esempio, il Madison Square Garden con la stessa passionalità di un elenco telefonico forse avrebbe dovuto suggerirmi qualcosa. Ma soprattutto il fatto è che lei è un'altra persona da me e non mi conosce. Cioè, come fa a suggerirmi cosa mi può piacere di più? Non possiamo avere gli stessi gusti, dai. Ma non basta questo a rendermi scettico. La domanda delle domande è: come diavolo fa a scrivere una guida dove parla di così tante cose, tutte così diverse? Cioè, veramente vuole farmi credere di essere stata in tutti quei locali, ma soprattutto di aver mangiato in tutti quei ristoranti? Cioè, ci vorranno 2 vite e uno stomaco di ferro per farlo scrittore di guide turistiche. Per cui, niente, alla fine io mi sono convinto di una cosa. La signora Connor Gorry, così come tutti gli altri autori, semplicemente tira a indovinare. Tipo, questo ristorante è buono, quella è una bella zona, ah, quel museo non vale tanto la pena, in quel locale c'è dell'ottima musica. Tanto alla fine, a chi andrà a protestare, no? Potrà sempre rispondere: oh, questo è il mio gusto, mica il tuo. Se fossi italiana direi che si fa pagare dai proprietari dei locali, però siccome è americana, siccome è calvinista e quindi è assolutamente incorruttibile, io sono convinto che magari sarà pure una che tira a indovinare, ma di certo non è in malafede. Sì, perché dovete sapere che io ho una venerazione assoluta per New York e i newyorkesi, a parte quando mi mettono tutto quel ghiaccio nella Coca-Cola. E la signora Gorry è newyorkese, è una specie di virus che ho contratto anni fa e che non ho ancora debellato. Comunque, io non vorrei essere la signora Connery e credo che sia una vita d'inferno scrivere le guide. Eppure ho seguito i suoi consigli e ne ho tratto un enorme giovamento. La prima volta che ho messo piede a New York ho avuto subito la sensazione di essere a casa. Mi sono detto: evidentemente sarà proprio come dicono, no? Che aver visto tutti quei film mi ha tolto ogni possibilità di essere sorpreso. E magari può anche essere vero. Ma secondo me è più che altro che, siccome avevo letto con attenzione maniacale le mie 4 guide della città, avevo nel DNA ogni singola informazione necessaria. Tipo dal numero di telefono di tutti i noleggi auto all'indirizzo esatto di quel particolare ristorante kosher. Praticamente ero un ufficio turistico ambulante. L'attesa in fila all'immigrazione all'aeroporto, al JFK, insieme a tutti gli altri passeggeri, si è risolta in una specie di consulenza gratuita che dava a tutti i vicini. Ovviamente, a seconda della composizione familiare, davo suggerimenti ponderati e personalizzati. Voi avete un bambino piccolo? Vi sconsiglio l'Empire State Building. per la vista dall'alto c'è una coda troppo lunga in uno spazio troppo angusto, però vi consiglio invece il Top of the Rocks al Rockefeller Center, lì è spettacolare. Oppure a voi interessa l'arte ma avete solo 3 giorni? Lasciate perdere il Guggenheim, è sopravvalutato. Fatevi l'ala europea del Metropolitan invece, che tra l'altro mercoledì è pure gratis, e dedicatevi a quel gioiellino che è la Frick Collection. Poi giù a menzionare pittori, orari di aperture. Appena uscito dall'aeroporto però sono salito sul taxi e sono rimasto ipnotizzato dalla vista dei finestrini. E praticamente non mi sono nemmeno accorto di essere arrivato al Greenwich Village e lì sono rimasto fregato. Sì, perché quella è l'unica parte della città in cui le vie non sono un reticolo perpendicolare. E quindi chiaramente mi sono perso. Ma non perso, proprio perso. Perso nella mia prima ora a New York. Non me ne sono dato pace, ho continuato a girare in cerchio con gli occhi bassi finché a un certo punto sono stato fermato da un tizio. Sì, perché è strano, però a New York, se sei in difficoltà, se ne accorgono gli altri prima di te e ti fermano per dirtelo con gentilezza. Ah, e poi oltretutto ti mostrano anche la soluzione. Non so se avete presente cosa succede a Milano. Ecco, il contrario. Insomma, il tizio mi ha guardato in viso, mi ha chiesto se mi ero perso, io ovviamente gli ho risposto di sì, e lui mi ha detto dove dovevo andare. Io gli ho mostrato il nome dell'albergo che avevo scritto su un fogliettino di carta, no? Come un bambino in gita scolastica. Lui ha sorriso e mi ha indicato la via. Ecco, è lì che mi sono innamorato di quella città. Ho ringraziato il tizio e mi sono subito riperso, ovviamente, perché ormai ero innamorato e non me ne fregava niente di perdermi. Perché tanto avevo capito subito che non sarei mai stato in pericolo, perché ci sarebbe stato sempre un tizio che mi avrebbe aiutato. È per quello che ci si sente a casa a New York. Perché le guide servono solo a stare meglio. Ma per vivere basta alzare lo sguardo e incrociarlo con quello degli altri. Nonostante tutto però, nonostante lasciare New York non sia facile, nonostante la prosopopea e gli appunti presi con la matita, queste guide sono in vendita. Il loro valore sul mercato è di 15 euro circa. La base d'asta però qui sono 99 centesimi. Per vederli www.radio24.it. 80024 invece per chiamarmi, per dirmi cosa avete lasciato a casa del vostro ex. Fatelo subito. 80024 0024. It's quiet now, and what it brings is everything. 16 e 20 minuti, questa è Radio 24, invece 349-238-6666 è il numero per mandarmi gli sms e dirmi come hanno fatto questi ascoltatori, che cosa avete lasciato dai vostri ex. Allora, ho lasciato alla mia ex un lettore mini disc e la discografia completa di Eminem, compreso le rarità, i suoi regali venduti tutti. Ciao Giordano. La mia ex terrà con lei la mia bicicletta Atala rossa, la TV con VHS, la macchina fotografica con le ultime foto, le foto delle vacanze e i miei anfibi blu. Buona vita, vecchie cose. 349-238-6666 invece 80024-0024 per chiamarmi e dirmele a voce. Andiamo a Brescia, Federico, pronto? Sì, pronto, ciao. Buongiorno Federico, come stai? Ah, io benissimo. Bravo, voi? Tutto bene? Io sì, si tira avanti, diciamo. Tu da quant'è che ti sei lasciato con quella che si è tenuta con le cose? Beh, risale a qualche anno fa, perché ormai sono 4 anni... quindi ho avuto anche già un altro rapporto e tutt'oggi ne ho uno nuovo ancora, quindi è, diciamo che non è proprio una scottata recente. Ok, che non ti tiri indietro, Federico, anche sì, tu. Sì, diciamo che è andata bene nella mia vita. Bravo. Per il momento, ho sempre trovato donne per cui valeva la pena. E questo in particolare ha ben pensato invece di non lasciarmi scelta, nel senso che io le avrei lasciato anche qualche cosa, ma ha pensato bene lei di portare via tutto e quello che non ha portato via ha buttato via. Quindi in ogni caso da quel rapporto non mi è rimasto niente, diciamo. Cioè, lei ha buttato via tutto? Tutto. Io ancora non sono riuscito a rifarmi il guardaroba che avevo 4 anni fa, perché ti lascio immaginare, in 26 anni di vita, 4 anni fa, anzi scusami, in 28 anni di vita, perché 4 anni fa avevo 28 anni, mi ero fatto un guardaroba che ovviamente ad oggi non ho più. Ma dimmi una cosa proprio a cui tenevi e che l'hai lasciato. Ma una cosa a cui tenevo che l'ho lasciato... C'è una cosa di cui proprio, per cui ti sei pentito, per cui hai detto, boh, forse avrei fatto meglio andare a riprendere. Quello di cui mi sono pentito è di non essere andato a casa prima a portarmi via la roba. Ah, ok, una questione di tempismo. Cosa. Perfetto, Federico, ti ringrazio moltissimo, buona giornata. Figurati, ciao, a presto. Rimaniamo a Milano, Mirko, pronto? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno anche a te, Mirko. A te la cosa è fresca oppure... No, la cosa è passata già da un po' di tempo, contentissimo della scelta che ho fatto, ho lasciato lì tutto. Ma tutto, dallo spazzolino da denti ai calzini. Ma lì la casa innanzitutto di chi era? Era vostra o la era sua? La casa era sua. Quindi però vivevate insieme. Non pagavo neanche l'affitto, niente, ho lasciato tutto lì. quella del non pagavo neanche l'affitto mi piace molto, nel senso che tu sei rimasta a babbo morto per quanto tempo a casa della tua ex? 4 anni. Beh, no, ma tipo che la casa era sua e quindi pagava il mutuo? La casa era sua e io pagavo le bollette. Ah, ok. Però era, non aveva il mutuo, non c'era quella roba, no, per cui il mutuo, ho il mutuo quindi facciamo a metà, e no, non facciamo a metà perché poi rimane a te? No, era esatto, semplicemente sua. No. Ok, quindi tu l'hai lasciato tutto, dimmi una roba che ti manca però. Niente. Niente. Contentissimo di aver fatto la scelta, fantastica. Ma lì c'era del senso di colpa però, Mirko. Abbastanza. Ah, ok, nel senso che l'avevi lasciata tu. Esatto. E ne avevi combinata una anche. 2, 3. Ok, perfetto. Però col senso di colpa non vale. Ti ringrazio, Mirko. Buona giornata. Grazie a te, ciao. Fabrizio Lavarese, pronto? Sì, ciao. Senti, io due cose ho lasciato. Un paio di libri di montagna, perché sono un appassionato. Uh-huh. Ma soprattutto la mia casa. Io mi sono separato, ho lasciato mia moglie 1 anno e mezzo fa. Circa. Sì. E quindi ho una mansarda che è meravigliosa e me la sono fatta tutta io, dall'inizio alla fine. E accidenti... E stai benone. Senti, fammi capire, ma tu quanti anni hai, Fabrizio? 47. E quindi a 46 ti sei fatto praticamente una casa nuova? Magari, adesso vivo con mia madre e aspetto che anche la mia nuova compagna, insomma, si sistemi un po' per poi rifarci un'altra casa. Senti, quindi mi sembra di capire che la cosa che ti manca di più è proprio la casa in sé. Accidenti, sì. Soprattutto la mansarda, perché non c'era nulla quando abbiamo comprato quella casa. L'ho fatta proprio io da zero, cioè ho perso un sacco di lavoro. Ah, quindi la casa non è solo la mansarda, cioè è un appartamento con una mansarda. Esatto. E non potevi andare a vivere su in mansarda? Sopra. Scusa. Mia moglie non era troppo d'accordo. Sai, okay. La legislazione da questo punto di vista assolutamente dalla parte della donna. E cioè io fortunatamente posso vivere da mia madre, ma altrimenti... Ma anche tu l'avevi fatta grossa, Fabrizio, fammi capire. Cioè, c'era, era colpa tua? Ascolta. Sì, no, è colpa mia, nel senso che l'ho lasciata io. Ah, ok, no, cioè, sì, esatto, per colpa... mi sono innamorato di un'altra donna. Ok, ok, infatti non si tratta di colpa, si tratta semplicemente di fatti che accadono. Fabrizio, sì, ti ringrazio. Mi segno la casa qui, la casa, più che la casa, la mansarda, direi, che ti brucia mamma proprio. Mia, la mansarda. Sì. Perfetto, ciao Fabrizio, grazie. Ciao. Edi da Roma, pronto? Ciao. Ciao. Ehi, oh, finalmente una donna. Sì. Tu hai lasciato o sei stata lasciata? No, ho lasciato. Hai lasciato? Alla fine ho lasciato. E cosa hai lasciato in casa? La bellezza di 40 anni fa, perché io ne ho 60. Beh, però ne dimostri 20, Edi, guarda. Ne dimostrerai 20. Vabbè, lasciamo perdere. Insomma, 40 anni fa? Ho lasciato una medaglia bella pesante d'oro, fatta fare da un orafo con tutto l'oro che avevo, con inciso sopra la Tour Eiffel, che era il posto dove ci eravamo incontrati. Ma ed era stata presa apposta per quello, quindi? L'ho lasciata perché non me ne fregava più niente. Beh, ok. Senti, ma più o meno il valore commerciale di tutto ciò non riusciresti a fartene era un'idea. Una medaglia bella pesante. Tutto quello che avevo, poi l'avevo fatta fare da un orafo, era una cosa... Con la Tour Eiffel apposta, che era un po', Edi, l'hai lasciata perché pure un po' kitsch la Tour Eiffel, dai, in fondo, no? La Tour Eiffel sulla moneta, no? No, era stilosa, ok, carina. Perfetto. No, solo che secondo me quando si finisce un rapporto bisogna lasciare tutto. Bravo, quindi tu sei d'accordo con me, Edi? Sì. Perfetto, grazie mille. Buona giornata. Bisogna dare un bella forbiciata a tutto. Bravo, vendiamo tutto. Ciao Edi, grazie. Grazie a te, ciao. Ciao, io adesso invece passo oltre perché fortunatamente anche grazie a voi ho superato il momento. Torniamo invece ai desideri. Sapete che tutti i giorni vi faccio sentire la mia lista dei desideri, ma avendo tutto, @radio24.it, cominciano ad arrivare i desideri degli ascoltatori e io ringrazio Marco per avermi mandato la sua lista. Dirigere l'orchestra del concerto di Capodanno. Finire l'università. Battere Schumacher a scopa. Scoprire la cura del morbo di Corea. Vivere per un anno nel 1984. Scrivere canzoni per i 3 allegri ragazzi morti. Girare tutta l'Europa. Fare un weekend romantico con Violante Placido. Fidanzarsi con Carmen Consoli e lasciarla. Fare un corso di spada giapponese. Avere una casa a Berlino, una a New York e una a Tokyo. Avere il tempo e la piscina per nuotare tutti i giorni. Andare alle feste, da solo, divertirsi e tornare a casa in dolce compagnia. Un paio d'anni fa le cose che ha lasciato a casa mia, la mia ex, le ho inscatolate tutte e buttato tutto nel Tevere. Chissà se si ricorda, Luca di Verona. Io ringrazio invece Laura Faggini, Tiziano Bonini, il Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. Domani è venerdì e il venerdì si parte, quindi visto che oggi vi ho raccontato come mi documentavo prima dei viaggi, domani vi racconto come preparavo i bagagli, visto che è il turno della mia valigia. Per vedere e comprare le guide su New York c'è il sito radio24.it. Io, per me, continuo a liberarmi di tutto, perché anche delle guide turistiche, alla fine, sono solo delle guide turistiche.